con Paolo Pisanelli, direttore artistico della sedicesima edizione della Festa di Cinema del Reale, al Castello Volante di Corigliano d'Otranto, in provincia di Lecce, dal 16 al 20 luglio 2019. Paolo, ben trovato. Ben trovato, grazie. Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Onda Rossa. È sempre un piacere raccontare di cinema con te, Federico. Questa è una festa che ormai ha una certa età, non è maggiorenne, ma quasi 16 edizioni. Quest'anno siamo a Corigliano d'Otranto, un borgo bellissimo. È il Castello Volante, che è un progetto molto particolare, che ha fatto di questo castello un centro espositivo, un centro dove si fanno festival di musica, teatro e cinema. Da quest'anno Cinema del Reale si trasferisce proprio a Corigliano. L'anno scorso avevamo inaugurato lì la mostra di William Klein. Quest'anno inauguriamo una mostra bellissima di Letizia Battaglia, quindi siamo molto contenti perché nella giornata inaugurale ci sarà la mostra dedicata a Letizia Battaglia, ci sarà Letizia e ci sarà il film Shooting the Mafia di Kim Longinotto, che è un film molto bello, molto, molto forte, che racconta un po' della vita, degli scatti fotografici di Letizia. Bisogna dire che quest'anno non è solo Corigliano d'Otranto. Abbiamo una giornata il 27 a Tigiano, una notte bianca di Cinema del Reale, cinema e musica, e un omaggio a due cittadini di Tigiano, premio Oscar. Si tratta di Helen Mirren e Taylor Hackford, che presenteranno il film Il Sole a Mezzanotte. Quindi siamo molto contenti di avere questi ospiti così importanti, ma anche così salentini, perché ormai vivono da anni qui nel Salento, a Tigiano, ed è un modo così anche per conoscere il loro lavoro. Helen ha avuto il premio Oscar per The Queen, insomma non c'è bisogno, credo, di presentarla. Niente, quindi siamo contenti di queste collaborazioni. Mettiamo al centro gli sguardi delle donne: Cecilia Mangini, Letizia Battaglia. Verrà Mariangela Gualtieri a fare un reading e il Teatro della Valdosa. Con Cesare Roncone e Martina Dellara presenteremo proprio Destino, un bel documentario che loro hanno realizzato. E poi ci stanno molti film importanti italiani: Selfie, Normal, Selfie di Agostino Fetente, Normal di Adele Tulli. Ma non mi metto a nominarli tutti perché Sì. sicuramente me ne scappa qualcuno. Certo. Ma c'è sempre questo mix, sai, la cosa penso più originale di Cinema del Reale è che è una festa di cinema del reale, ma di incontri, di scambi creativi. Ci sono performance musicali, film musicali dal vivo, aperitivi sulle terrazze, proiezioni nel fossato. Ci sarà una collaborazione con Golden Tree International Festival, un festival di Francoforte, un festival cinese però che si svolge a Francoforte. Ci saranno anche delle mostre che riguardano alcune regioni della Cina e anche uno scambio, diciamo, tra i festival di visioni. Noi proietteremo due bei film che ci vengono proposti dal Golden Tree International Festival. Quante Ah, dimmi. sono nel complesso le opere che presentate? Ah, beh, questa è una bella domanda. Sono più di 50 opere, non sono in concorso, nel senso che noi premiamo gli autori che invitiamo. C'è La Botta Grossa, ci sta Vivere Chi è Rischio, che è stato premiato, di Mellara e Rossi, è stato premiato al Biografi Festival. Ci sta Radici, ci sta Arcipelago di Giulio Squillacciotti e Giulia Inzon. Insomma, ci sono molti bei film. Noi premiamo gli autori che invitiamo, non c'è competizione. Crediamo che questo cinema del reale abbia bisogno di essere visto, soprattutto promosso, diffuso. Più che una gara, pensiamo che ci sia bisogno di incontri e di dare forza a questo modo di fare cinema, che è un cinema indipendente, che si fa con pochi soldi, ma esprime grandi temi, anche temi urgenti su cui bisogna riflettere, bisogna ragionare, bisogna incontrarsi con le persone, bisogna vincere le paure, perché le tre parole di quest'anno sono luci, paesaggi, bugie. Ecco, e su queste bugie, un po' anche il cinema è un'arte della bugia e della finzione, forse è anche un'arte del reale, però del raccontare il reale. Però credo che su queste bugie bisogna riflettere, perché viviamo in mezzo alle fake news, viviamo in un paese governato da persone che insultano gli stessi cittadini italiani e stranieri che arrivano, che non vogliono ospitare, tutto all'insegna dell'egoismo e delle false notizie. Quindi io penso che bisogna un po' svegliarsi, aprire gli occhi e ognuno deve farlo con quello che sa e che può fare. Noi facciamo cinema, amiamo il cinema, promuoviamo il cinema e anche quindi uno sguardo su questi temi che sono i temi di tutti i giorni, che si affrontano in vario modo, però il cinema documentario ha la capacità di riflettere, di andare più a fondo alle questioni o anche di avvicinare le persone alla vita degli altri, che a volte ci risulta oscura, ci risultano numeri di persone che si perdono, che affondano, che non arrivano o che arrivano e sono un problema. L'unico mezzo per vincere l'ignoranza e questa difficoltà proprio di comunicare e di scomunicare è proprio conoscere, quindi conoscere più da vicino la vita delle persone. Paolo, in chiusura, ci lasci tutti i riferimenti web per seguire la programmazione? Sì, www.cinemadelreale.it, poi sui social, Instagram, Facebook. Noi facciamo delle collaborazioni anche con il Festival del Sud-Est Indipendente, quindi avremo in apertura, in prima giornata, anche lì Ranaldo, sono i Youth e Lea Singer, che faranno una performance dal vivo dopo il film di Letizia. È un grandissimo omaggio a una persona che ci è molto cara, che è stata nostra ospite nel 2011 e che è Agnès Varda, e penso che è un omaggio proprio dovuto, anche se non l'avessimo conosciuta. Penso che è stata una grande donna, una grande regista, una grande autrice, e i suoi film ci parlano ancora molto. Noi presenteremo in collaborazione con Vive le Cinéma, presenteremo Varda par Agnès e poi presenteremo Visage, e poi Opera Muff, e poi Salut le plus ben, insomma tutto quello che potevamo, un omaggio ad Agnès, viva Agnès. Sedicesima edizione della Festa di Cinema del Reale, Luci, Paesaggi, Bugie, questo è il titolo dell'edizione di quest'anno, dal 16 al 20 luglio a Corigliano d'Otranto e il 27 luglio a Tiggiano. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Paolo Pisanelli. Paolo, un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Ciao, ciao, grazie. Viva.